Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Lo sapete che anche il marketing può fare del bene? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con l'antologia estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel primo degli approfondimenti che vi riproponiamo parleremo di cause-related marketing, o marketing sociale, il lato buono della pubblicità. Spazio poi al design d'autore con la storia di un grande artigiano designer, focus sui trend dedicato invece al retailtainment, quando lo shopping diventa divertente. La borsa della spesa. Tutti gli incassi saranno devoluti a parte del ricavato andrà a favore di. Quante volte ci capita di leggere questa scritta sulle foto o sulle immagini di una campagna pubblicitaria? Si tratta di cause-related marketing, letteralmente attività di marketing collegata ad una causa sociale. Si tratta di una partnership tra un'azienda, un marchio e un'organizzazione no profit per realizzare un progetto di interesse sociale attraverso la promozione del brand o di un prodotto. Il marketing sociale è un importante strumento per la responsabilità sociale di impresa ed è in forte crescita nonostante la crisi degli investimenti pubblicitari. Lo testimoniano i dati diffusi dall'osservatorio Fondazione Sodalitas che insieme a Nielsen Media Research monitora gli annunci di cause-related marketing. 200 milioni di euro. Tanto valgono gli investimenti nel marketing sociale in Italia, più 3,3% rispetto a un anno fa. Il settore vale lo 0,6% circa del mercato pubblicitario italiano, quasi 11.000 gli annunci realizzati nel 2010, l'80% dei quali sulla carta stampata, anche se radio e TV prevalgono per numero di annunci pubblicati. Ancora molto basso il ricorso a internet come canale per campagne di cause-related marketing. Tra i settori che hanno investito maggiormente in campagne sociali spicca l'abbigliamento, che copre il 25% circa degli investimenti, ma a guidare la top 10 delle aziende big spender c'è Banca Mediolanum, seguita da Pupa, Louis Vuitton, Elena Miró, OVS, Pomellato, Procter & Gamble, Yamamay, Thun e Oro Verde. A parità di prezzo, il marketing sociale può contribuire a spostare la scelta del consumatore verso i prodotti che sostengono una causa. L'impegno sociale per le aziende dunque paga, ma deve essere trasparente, ci dice Ugo Castellano, responsabile dell'osservatorio Fondazione Sodalitas. In un contesto del mercato pubblicitario che è caduto del 10-15% l'anno scorso, le aziende che hanno utilizzato la comunicazione commerciale a sostegno delle loro iniziative di cause-related marketing ha fatto registrare un po' più del 3% di aumento, quindi in qualche maniera questo settore è andato un po' controcorrente. Questo è sicuramente un segnale positivo che conferma il buon a disimpegno di questo tipo di utilizzo dei mezzi pubblicitari che possiamo registrare negli ultimi anni. L'altra cosa è che in qualche modo c'è la conferma che alcune grandi imprese concentrano una percentuale piuttosto elevata di contributi e investimenti nell'area della comunicazione a favore delle loro iniziative. Infatti le prime 10 aziende hanno rappresentato un po' meno del 50% del totale investito in quest'area nel 2010. Quindi questo è un altro segnale in qualche maniera che sono proprio un certo numero di imprese molto attente a queste iniziative che hanno realizzato la parte principale degli investimenti. Il rimanente 50% si è suddiviso su un circa 150 altre imprese che hanno realizzato investimenti in comunicazione. Quali sono i vostri parametri? Quali gli elementi che devono essere presenti affinché una campagna sia definita di marketing sociale, di cause-related marketing? L'elemento è molto semplice ed è che ci siano almeno due elementi contemporaneamente: la presenza di un'azienda, quindi di un'impresa produttrice di beni oppure di servizi, qualsivoglia, e quello di una organizzazione non profit, quindi un'organizzazione senza fini di lucro, a cui vantaggio va la comunicazione realizzata dall'impresa che sta realizzando l'iniziativa. Quindi, diciamo, se Dash, faccio il primo esempio che viene in mente, fa una sottoscrizione a favore delle sale pediatriche degli ospedali per bambini in Italia, e lo fa insieme con AIBI, che è l'organizzazione che da anni sostiene Dash, questa è una campagna di responsabilità sociale, di co-creator marketing. Ci sono margini di crescita, ad esempio ci sono mezzi internet su tutti, voi lo avete evidenziato, in cui ancora questo tipo di campagne, certo, sono poco presenti. Certo, ma non c'è dubbio. Allora, internet sul mercato globale della pubblicità, internet è il settore che cresce in maniera molto ma molto significativa. Dicevo prima, meno 15% del mercato totale, internet l'anno scorso ha fatto registrare crescite del 25-30%, quindi un mercato fortemente in crescita, pure partendo da numeri relativamente piccoli. La stessa cosa, secondo noi, succederà anche per queste iniziative di co-creator marketing, che utilizzeranno sempre di più gli strumenti dei nuovi media digitali. Si parla di greenwashing quando si parla di una spolverata verde per gettare un po' di fumo negli occhi dei consumatori. Ecco, per campagne di questo genere esiste un rischio analogo di charity washing? Questa è nuova. Charity washing non c'era ancora nella... Direi di no, perché in questo caso il discorso è molto più trasparente. Qui c'è un'azienda e una non profit che insieme hanno deciso di creare una partnership, quindi la non profit ha lo scopo e l'obiettivo di raccogliere fondi, di raccogliere volontari, di migliorare la propria visibilità, eccetera, e la profit dice: io, in cambio del sostegno che tu dai alla mia iniziativa, sostengo la tua operazione a fini di bene. Quindi qui non c'è rischio, secondo me, di greenwashing, perché l'operazione, se è fatta bene, e queste qui di cui stiamo parlando sicuramente sono fatte complessivamente bene, si tratta di una partnership a parti uguali, in cui entrambe le parti, quindi l'impresa da una parte e non profit dall'altra, hanno lo stesso ruolo e hanno la stessa capacità di portare a casa risultati vantaggiosi per entrambi. Parlare di design, così come di arte, di moda, ma anche di pubblicità e comunicazione, significa molto spesso raccontare una storia. Una storia che da personale diventa collettiva e racconta il nostro tempo attraverso un'esperienza di eccellenza. È quello che fa un documentario uscito di recente dedicato a un grande designer, Lino Sabattini, ex operaio, classe 1925, artigiano, argentiere e designer. Insieme Sabattini ha creato oggetti esposti nei musei di tutto il mondo e ha collaborato con i più grandi nomi e marchi del design, da Gio Ponti a Bruno Munari, da Cassina a Christophe. Quando si disegna si fa qualche cosa apparentemente astratto, ma è astratto per chi lo vede, ma non per chi lo fa. È un ritmo musicale, è una musica senza note, però una musica di forme e di colore. Ponti è venuto nel mio laboratorio sotto scala, dopo ha visto i pezzi, li ha pubblicati su Domus, e lui ha proposto di vendere alla Christophe tutti i miei oggetti moderni. Bisogna prima capire, imparare, poi dopo le cose si fanno da sé. Io non dico mai di aver già fatto una cosa nuova ancora deve venire. Fare, poi qualche cosa maturerà. Non bisogna mai fermarsi, mai, assolutamente. Io andavo per conto mio e la corrente andava per conto suo. Soltanto che io non volevo seguire l'andamento della moda, del momento, perché la gente chiedeva questo. Non riesco a farmi capire